Salam Faiza. Dicembre, sono le 21:30 e pochi minuti. Questo è Controradio e state ascoltando Ragnan Paisa. 055 73 999 33 è il nostro numero di telefono. info.ragnanpaisa@gmail.com è la nostra email. ragnanpaisa.net il sito. Sarete con noi fino alle 22:30 e possiamo mandare Biga per il suo primo set. As we continue to proceed, we approach the infamous medulla oblongata. Oh, the part of the brain that turns your guts inside out after a night of too many drinks. But we're not complaining, because it basically keeps you alive. Don't make jokes like that again. Well, moving on. Here we see the hypothalamus. Now, next time you're in a crowded place with underarm sweat patches, blame this guy right here. Really? Because he regulates the heat in your body. If I may, as you look to your left, we can see the cerebellum. This section is key. The weaponized mind. What's the fuss? What's the fuss? Mike Kelly. Right, easy, gives life easy. London. Look, my team is focused. It seems you notice you taking notes like you need diplomas. Beat these poses, then we stick them up like they're just sheets and posters. My words are my weapons. I sharpen my sword as the beast approaches. I've seen the meanest soldiers turn out as a feast for vultures. Vulcan grip on your mind so you peep my notion. The deepest ocean couldn't quench this heat I'm loading. I reload my cartridge, then I aim these metaphors right at your cartilage. I know the method's strange, I'm letting letters spray. You sprain your ankle trying to get away, brethren, like when Beretta's wave. And with no metal aims, I hit your mental frame with these similes. Similar to a trigger squeeze, let that resonate. Just let it resonate. As soon as I select the page, I'm hitting everything in my selective range. But I don't need to engage with the 20 gauge. I leave my lyrics ingrained in your people's brains. Let it go, giving dudes some time to ponder. Don't you wonder what it's like? You lying and you scheming just to say you wanna fight. Oh, you wanna fight? Nah. Tell your girls to put their hands down. Y'all don't want that work. Tell your men they need to stand down. I keep trying to tell you, you don't wanna see no man down. See if I put your man down. Tell him he can lay down. Kiss him on his neck, I promise I can make him go down. See, do you understand now? Y'all don't want no showdown. I won't put these hoes down. I don't even know how. I'm just trying to keep the peace, please. I can show how. step my game up. Broke a couple hearts, Cupid never got his aim up. I told you from the start, baby, I'm just trying to lay up and maybe save up. And in a couple years, I'll call you if you want one. Meditation, goddess of the river, lover of precipitation. I am the loving, I am the beauty, protection of a mother, but sometimes I can get moody, especially when my children forget that there's work to be done, ignoring the truth of the suffering one. Your greed and irreverence has dried me out. Rebel or prepare for eternal drought. Oh, Orishas, we your teachers, open up your eyes and recognize it's a reason. For the demons refuse to comply, speak your mind, don't abide. The Orishas, the teachers, it's the deities, the rivers and the seas. Orishas, the teachers, queens of Africa, Oshuna Yemosha. olhos, sem dar sermão. Nada na boca e no coração. Seus amigos são um cachimbo e um cão, casa de papelão. Olhos nos olhos, preste atenção. Olha a ocupação. Só ficou você, só restou você. Uivo um louco, sangue em choro, pra agradar opressão. Allora, ragionando un po' delle serate che ci saranno in settimana, sicuramente si può partire da giovedì 4, dove a Lo Strano Posto in via Pisana 82 Rosso inizia una nuova serie di serate denominate Mixology Session. Insomma, se siete ascoltatori di Controradio capite già che c'è lo zampino di Andrea The Me. Andrea Mi, P più un ospite segreto. Io lo so, ma mi è stato detto di non dirvelo. Comunque uno che c'ha pochi capelli come noi, c'ha gli occhiali, insomma. Andate giovedì 4 e ve lo beccate allo strano posto in via Pisana. Poi venerdì 5 al Tasso Hostel Florence ci sarà una ricca serata che immagino inizi presto perché chiude presto. E che vede sempre Andrea Mi, Lauton, ovvero Umberto Saba, Dre Love, che presenta Electric Jets Live, e diciamo l'headliner della serata, Dean Blunt da Hype Williams. Insomma, una serata che ne vale la pena. E subito dopo, tanto visto che finisce presto, alla Flog, Vibra Night, Cosca Ionica Birthday Bash, con Bunda Bash in concerto, e dopo Dancehall, appunto, di Cosca Ionica, Bom Chilom, Ematoras e Big Bamboo. Bunda Bash da Brindisi in concerto venerdì 5 alla Flog. Questo è Tommy con il suo set, noi ci sentiamo più tardi. Mi gato se está quejando que no puede vacilar. Ay, hombre. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. A ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre felido tiene que echar a correr. Cuidado. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío. Qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le cuenta, no es nada más que un ratón, un ratón. Llévatelo. Cuidado, Mayra. De cualquier maya sale un ratón, oye. De cualquier maya, como se cuela una rata, como se cuela un ratón. De cualquier maya, de maya, maya, maya, maya. De cualquier maya, de cualquier maya, imagina cómo se cuela un ratón, mamá. De cualquier maya, de Tropical, le parole bastavano da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatura totale. Illusional, come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtuale nella scusante del Monumental. Tropical, tropical, anzi subtropical. Sulle terrazze di notte l'estate italiana un via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal tropical. Comerte un cucurucho de maní. solita está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llamará para comporar. Mani, mani, mani, mani, para ti, para mí, mani, mani, mani, mani. Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo. Mari Belén, estoy tan enamorado de la negra Tomasa. Ay, que cuando se va de casa, pero que triste me pongo. Ay, ay, ay. Y esa negra linda camará en el Chuavilongo. Y esa negra linda camará en el Chuavilongo. No más que me gusta la comida que él me cocina de chiviri. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que él me cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Ay, ay, ay. Y esa negra linda camará en el Chuavilongo. Y esa negra linda camará en el Chuavilongo. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Ay, nada más que me gusta la comida que me cocina. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Estoy tan enamorado, mami, de la negra Tomasa. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Kikiribu, kikiribu, kikiribu, kikiribu. Kikiribu. Stasera selezione variopinta. Solo volevo far notare, così, che caso mai fosse passato, c'è il nuovo singolo di Paolo Conte che è una bomba, si chiama Tropical. Fantastico. Se come a me vi piace Paolo Conte, sentitevi l'ultimo disco perché ne sa come sempre. Ma veniamo all'altro, a Firenze non viene sto giro. Guarda, me sembra dei chip. Volevo guardare, ma di solito aveva tutti gli anni, grosso esatto. modo. E non lo so se quest'anno però io passa. Non ho letto che fosse in scaletta, però magari lo dovevo confermare, quindi non vorrei dire bestialità. Non lo so, però quest'anno c'aveva il disco vecchio buono. Verdi, hai vecchio Verdi, un sacco di Verdi. Me lo sarei visto. Lo aspettiamo a gloria. Paulino Conte. Lascia sempre Tropical. Vabbè, a proposito di seratine e situazioni? Venerdì sono al Tabasco in saletta, mentre di là c'è Ron Morelli e il buon Nick Gonnella che gliene dosano. Quindi venire. Poi c'è anche il Tasso, mi raccomando, all'Ostello Tasso, serata con super interessante. Sempre c'è il buon Blunt. Sempre, però, venerdì? Sempre, no, venerdì, sempre venerdì, sì, esatto, no? Quindi venerdì c'è un bel po' di roba e seguite. Venerdì ce n'è per tutti i gusti, sì, cioè, sì, quindi sì, c'è sì, la roba sì. al Tasso. Prima e poi dopo okay, venire in Tabasca. Poi c'è il Latex, ok, c'è mi un sembra sacco caso, di roba. Insomma, perfetto, voi. Perfetto, serata già bucata fino alle 5 la mattina. Claro. Così si è belli vispi per il fine settimana. Kiribu, bu. Kiribu. Vabbè, facciamo andare Duccio, poi sì. ci riaggiorniamo dopo. Vai. Kiribu. Perché c'è Duccio, ha fatto il loop intanto. Kiribu. Kiribu. Kiribu. Kiribu. Kiribu. Kiribu. Kiribu. Kiribu. Kiribu. Kiribu. Yeah.

Remember our days of slavery, our people sold out to Babylon. They tried to trick us out of our land. Of slavery, people sold out to Babylon. They tried to trick us out of our land, but not the dredge. Don't go back to Babylon. Not the don't go. Remember the pain and the suffering. Judge our children there in Babylon. They tried to change our power plans. So not the dredge, don't go back to Babylon. Not the don't go, it will be dread. It shall be dread. land for you and I, man. Work hard and make we do it in a yard. Africa, we're coming to take it there. Oh, Africa, una signora come mamma mia, oh. Mi dispiace quasi, guarda, parlarci sopra. Che rispolvero ti ha fatto stasera, oh. Si vede che ho portato 45 che ho portato 45 giri a casa. È buono. Bene, sono le 22:15, ancora un quarto d'ora per noi, manca Colossus all'appello. Intanto lo sapete, se volete scriverci lo potete fare a info.ragnampaisa@gmail.com. Il podcast di questa puntata lo trovate online già da domani sera, mm-hmm, sul sito, eh? Comunque se zazzicate sui social network iscrivetevi alla pagina Ragnampaisa, che basta scriviate sul campo di ricerca, esce Facebook, esce fuori a un gruppo, vi iscrivete. Siamo indicizzatissimi. Siamo indicizzatissimi. Ragnampaisa.net. Comunque, questa è Controllo Radio. Rimanete con noi fino alle 22:30. Colossius. That made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique, but I've seen your self-pity showing, as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? Joe on the street by Biddy somewhere in the ghetto, unwanted by the mother, so he ends up in the gutter, scooped up by a stranger who was just another loser. Grew up streetwise in the pride from his cup, while other kids had it all without any disrupt. He was a paranoid strange boy who'd ever play with toys, the quiet type of thinker. If you blank yo, he might shank yo. Five fingers fits perfect on a 4-5 robin, jumps on solitary bases to stay alive. Your cash and your jewels is what he's after, so feel the trap, or he might spill your soul if he has to. So be careful, old boy, when you approach the old boy, cause sometimes he switches his modes into killjoy. Just a little child fighting hard to stay alive. People say that he won't make it, either jail or he might die. But nevertheless, he was blessed. That's right. With talents and dreams that fulfill his emptiness. Cripple from the vast and is blind from the brightness. Caught up in the mess, so therefore, he will die in the darkness. Yeah, yeah, Mr. Sunday. I know what you're saying, G. I'm on them same vibes, too. I'm just gonna hold tight and maintain. I know it's gonna be a better way for me and my people, aight? This is death in the dark. You be sleeping in parks, ducking from the sparks, running from the lone sharks. Alien, you're illegal, so you can't go back. Was living at your aunt, no job, but Kovacs. Kicking raps, escape the rat race. A waste, you need space, ace. Your girl takes it as a case, where you're bugging. Try to tell her there's no future in clubbing, but she loves the nightlife, she wants the rubber dubbing. One day it's enough, you're broke, you didn't bluff, she got snuffed for sleeping with your boy Chicken Puff. It's rough, you had it all, even as a shorty, while you had nothing to be sporty but a cold 40. Hey, you try to fight him, but you couldn't prevail. He was just too strong, no food made you frail, so you bail. Revenge is your decision. Facts, you couldn't see him if you was an optician. Now you're creeping on them, singing sad songs. Tell me how you're gonna make a right from two wrongs. You can't. Age 26, open your eyes. Too late, you're dying in the dark. He was trapped. Surprise! Yeah, Slender Boy. My man, Funky Bass, number 2, Mellow White. Telling the real deal on how it is. Thank you. Thank you.